so fumare a letto è un brutto vizio, piangersi un po' addosso, poi la notte non dormo mai, mai. È vero che il bicchiere è mezzo pieno questa sera, ma solo perché ho già bevuto una bottiglia intera, e che mi manchi da morire, eppure il cane non la smette di abbaiare, e sarà che ogni volta che ti penso ricomincio sempre a scorrere le foto fino all'infinito e ridere da solo, pensa tu che scemo, oh, e in fondo ancora ci spero che prima o poi smetterai, che quando accendi la radio canti solo le canzoni ma degli altri, dovresti vergognarti che dopo anni non la smetti di mancarmi. Ma guarda casa mia com'è ridotta, che non faccio i piatti da una settimana, che non so l'ultima volta che ho fatto la spesa, con il disco di Battisti ancora lì per terra, con il cane che lo annusa perché un po' ti cerca. Ogni volta che ti penso ricomincio sempre a scorrere le foto fino all'infinito e ridere da solo, pensa tu che scemo, oh, e in fondo ancora ci spero che prima o poi smetterai, che quando accendi la radio canti solo le canzoni ma degli altri, dovresti vergognarti che dopo anni non la smetti di mancarmi. Se dopo anni non la smetto sempre a prendermi l'acqua per strada, che non l'ombrello nemmeno stasera, tienimi la fronte, ma pensa io che scemo che non penso che a te, e sono sotto casa. Chiamarti amore, non so nemmeno adesso più chi sei, ma prima o poi smetterai, che quando accendi la radio canti solo le canzoni ma degli altri, dovresti vergognarti che dopo anni non la smetti di mancarmi. Se dopo anni non la smetto di mancarmi.